soffia fra le pietre un alito di vento. Voci arcane antiche di secoli andati. Sussurro il mio canto, ascoltate. La conoscenza arcana viene svelata. Sento l'oscurità che si avvicina. Ombra muta tra muri e morte. Sento l'oscurità che si avvicina. Il respiro si ferma, la notte cammina. Ogni mistero adesso viene svelato. Un bagliore spento traccia nel buio. Chiedo agli spiriti, dov'è il pericolo? Chiedo agli spiriti, dov'è la meta? Sento l'oscurità che si avvicina. Ombra muta tra muri e morte. Sento l'oscurità che si avvicina. Il respiro si ferma, la notte cammina.